La conferenza stampa la facciamo per illustrare le motivazioni che ci hanno portato questa iniziativa, e cioè quella di costruire una carovana regionale sui temi ambientali e sociali. Una carovana che toccherà tutti i comuni capoluoghi di provincia e anche altri, e iniziamo proprio questo sabato 11 a Piacenza, e poi appunto scorreremo Parma, Modena, tutti i comuni capoluoghi, fino ad arrivare ultima tappa il 6 giugno a Ferrara, e poi la carovana si concluderà con un convegno regionale il 13 e il 14 giugno a Bologna, che sarà un momento conclusivo anche di raccolta anche di quanto emerge dentro la carovana. La carovana la facciamo appunto sui temi ambientali e sociali, e non a caso il titolo che gli abbiamo voluto dare è Diritti e rovesci. Diritti e rovesci, che sta a dire che vogliamo affermare i diritti ambientali e sociali, a partire dal fatto che vediamo che invece anche in queste regioni ci sono molti rovesci ambientali e sociali, e quindi le cose che non vanno bene. In ogni tappa ci saranno iniziative, presidi, eccetera, eccetera, dedicate alle vertenze ambientali e sociali che sono in corso in quei territori. Per esemplificare, partiamo da Piacenza. Piacenza c'è un'iniziativa che mette insieme le questioni della logistica. Sapete che la logistica a Piacenza è praticamente appunto uno di quei rovesci, cioè uno di quei disastri dal punto di vista ambientale, il consumo di suolo, ma anche dal punto di vista sociale, le condizioni dei lavoratori dentro la logistica. E poi, oltre alla logistica, parleremo anche della mobilità, sempre a Piacenza. A Parma, acqua, aria, terra. E poi, insomma, a scalare le trovate ci sono i temi delle vertenze che sono in corso dei territori. Vogliamo far emergere i temi di queste vertenze, perché sono troppo spesso vertenze dimenticate e non prese sufficientemente in considerazione. E quindi il senso della carovana è appunto quello di farli emergere e di dare forza reciproca a tutte quante queste vertenze. Vogliamo farlo, e facendo emergere questi temi, secondo punto rilevante, è che noi chiediamo una svolta profonda nelle politiche ambientali e sociali della regione, perché le politiche ambientali e sociali della regione non vanno bene. Siamo alla vigilia del fatto che dovrebbe essere aggiornato il patto per il lavoro e il clima fatto ancora nel 2020. Quel patto noi come Reca non lo firmammo all'epoca, nel senso che appunto avevamo evidenziato la contraddizione profonda tra enunciati di principio, alcuni dei quali potevano essere condivisibili, e poi le pratiche concrete. Ancora nel 2020 si diceva bisogna spingere sulle energie rinnovabili, e poi contemporaneamente si faceva il rigassificatore a Ravenna. Oppure si dice i beni comuni, i beni pubblici sono fondamentali, e poi si continua a privatizzare l'acqua e tutti i beni comuni. E quindi insomma siamo alla vigilia dell'aggiornamento di quel patto. Noi non siamo stati chiamati al confronto, probabilmente abbiamo la colpa di non averlo firmato 5 anni fa, però abbiamo visto quello che è il testo di base e confermiamo questo nostro giudizio. Enunciazioni di principio, è però una pratica che va in altra direzione, che richiede invece e fa emergere la necessità di una svolta delle politiche ambientali e sociali. Altro punto da esemplificare per la regione: c'è in discussione una proposta di legge sulle aree idonee dove collocare gli impianti di energia rinnovabile. È una legge regionale che deve recepire una legge, i punti fondamentali di una legge nazionale, quindi per intenderci non può fare tutto quello che si dovrebbe fare in autonomia, bisogna stare dentro quel perimetro. Una legge nazionale completamente sbagliata, perché consegna al mercato e all'azienda praticamente gli elementi decisionali su dove collocare gli impianti. E noi abbiamo presentato una serie di osservazioni, perché pur stando dentro il perimetro della legge nazionale si possono fare delle cose di Emilia Romagna che lo possono migliorare. In particolare bisogna mettere limitazioni alla superficie agricola da utilizzare, perché in questo momento una transizione fatta male, guidata dal mercato e dalle imprese, sta scegliendo le superfici agricole e l'agricoltura come luogo per fare le distese appunto sia di impianti di biometano sia di impianti fotovoltaici, via dicendo. Noi invece indichiamo tutt'altre priorità: prima di tutto gli impianti vanno messi sui tetti, nei parcheggi, vicino alle autostrade, nelle cave, nelle miniere. Il suolo agricolo dovrebbe essere l'ultimo ad utilizzare, un fatto assolutamente residuale. La legge regionale invece dice che a livello comunale si può utilizzare il 2% di superficie agricola e anche andare oltre, e soprattutto quel 2% lo calcola a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Quindi, come dire, quello che è successo fino adesso non viene conteggiato, già siamo in presenza di queste situazioni. Noi diciamo per esempio che invece quel limite va ristretto all'1% e va fatto tenendo conto anche della superficie agricola che è già stata utilizzata fino adesso. Ecco, questi sono i punti di fondo. Ultimi due ragionamenti: realizzeremo un docufilm, cioè tutte le tappe verranno appunto, faremo delle riprese e dopo l'estate vorremmo appunto presentare il docufilm di tutte queste vertenze territoriali. Ovviamente tutto questo si connette al fatto che noi come Recca e Lega Ambiente Emilia Romagna abbiamo presentato 4 proposte di legge di iniziativa popolare sui temi ambientali, le depositammo ancora nel 2022. Le leggi hanno ripreso il loro percorso con la nuova legislatura, sono state assegnate alla Commissione Ambiente esattamente il 12 febbraio dell'anno scorso, la discussione non è ancora iniziata.